Attenzione, signor Battisio! Oh, signor Battisio! Lucia Marie! Attenzione Gian Maria, attenzione Gian Maria, attenzione signor Battisio, olè olè olè, attenzione signor Battisio, attenzione signor Battisio, e chi è? Attenzione signor Battisio! Ma ciogga è andato! Che ta ciogga? Buonasera! No, sono assaggiato ancora ciogga, allora che torna, ve lo dico, che sei buona! A così è! Andiamo, vai, andiamo! Oh yeah! Così a segni, sia! io ci sono fatto più di noi, ormai! Non bisogna nemmeno più luci! Per carità, un casino, non può passare nulla. No, signor Bacchi, nulla, nulla. Cazzo, che andiamo per andiamo. Come mi sembra di loro se proprio intendi, esci di lì. Che in ospedale è un casino, Se andai in chivi, ti pigli un virus. Se non ti basi in nulla. Non t'assetta ne manco, perché la mara giusta? Non t'assetta ne manco, deve essere in carriera. E a chi non lo gioco? Ha un amico, la Giuseppe Duggi. Ha dentro due di fuori, nero gozo, nell'ambulanza. Ha dentro. Ha fatto arrivare i carabinieri per poterlo assassinare sopra, a controllarlo. Stavo in lungo, tutto incasato, pieno. Andiamo. Marino. Non lo so, non l'ho sentito ancora. Io sto mettendo a posto un computer per mio fratello, ne vedo che buono è da puccio. Lavorazione, sì. No, se fai tutta la giura, non ti preoccupare, se fai tutta la giura. Da sei tanto lo sai. Gli ho messo il disco da avvio, da installarsi, perché non mi faceva mettere nulla e allora l'ho attaccato al computer e ho fatto resettare a lui. E se l'ha resettato, formattato e adesso se lo sta installando. Un grande lavoratore ha avuto. No, sta facendo tutto lui, si sta facendo. Io leggo molto la casa, se non mi posso muovere non posso andare a comprare nulla. Aia, andiamo. Vabbè, siamo qui. Quando ci sentiamo bene, lo facciamo. Ehi, così bisogna fare. Così bisogna fare dopo. Forse è una miseria. Se c'è poco di diventato di droga non voglio fare il miracolo. Cazzo, io allora c'era un problema. Allora c'era un problema, c'era. E che sarà? Io lo so. Ho detto, e chi sarà questo? Ah, boh. C'era la carricone. Magari ci riproduciamo tutti quanti, ridina che fa. E c'è fuori di gabbo iscia. E io con la questione, ritornando indietro dirà, un vicino a campagna, vicino a casa, vieni via dalla mia, ha avuto un coso, una bruchita piena di denaro, piena, però il denaro è travaitato, raccontati e si sono curati. E sarizia, pure a documenti. È un'immaginazione, noi abbiamo il baetto, vai da prima di una dell'altra, e seguenti disegni antichi e disegni tuttora, in sogno, se tu sogni una cosa, Dice, anda e piglia a dire se abbiamo parlato non toccarla. Infatti, se parlate non toccarla no. E invece era toccato. Se pigliate la bruchita e se vi facciate la bruchita era viuzza. Chietta, allora chi ci sono? So di nami, 50-20 euro sogno, so di nami che tornano in Darido. Come ti era a casa? Ma poi dove ti girarsi di casa? Poi c'è i gradini passani, mi sono, tre gradini per me sono quattro. Io ti vedo proprio a muro, è a conto della capitulia, ma poi ho 50 anni, 60 anni pure. La cosa della capitulia, hai fasciato il dominio, papà ha potuto fabbricare, coso, e poi era un coso, un buccione, e un fiacco di musi, pieno di denaro. Quando l'ha becchio, dai denaro si è diventato in buccia di gioca. Ma che si sono furati, ormai non si viene più, ecco si sono furati, si sono fatti in coso. Certo che andiamo dove andiamo. Sì, la cosa del latte bisogna lasciarla. Infatti, se la cosa del latte bisogna lasciarla sì. Cavalli che sono incrementati le cose, i dolori. Mira, ma li vuoi dare, ma la sorte di dolore li vuoi dare, se no no. Aia, aspetta un attimo, signor Bacchi. Non si accomodino. Perché era Bruscini, signor Bacchi? Oh. Anzi, la già manda Gian Maria non mi ha ripuso. Beh. Campagna, sto dire. Cosa è? In campagna. In campagna se ne è andato. Sto in campagna, non si conuda. A Gussie, ma viene una specie di cinchiotto. Boh. Io sono Vincenzo Agosto. Io sono 20 errori e mezzo a fanciullo ed è nuovo. L'89. Se stai parlando e si sgancia da solo. Ah, dal microfono? È abbassato, no? Si sgancia e rimane con lo pulsante abbassato e deserrato. A che cosa va allora? Deve essere qualcosa c'ha. La signora andrà a pentirsi, dopo il buon umano facciamo operazione pari. Andiamo bene, andiamo. Bobo. Ma non ascolti con questo, sì? Sono di rosso. Andiamo bene con allora. Che funziona bene. 73. Ah? 73, sì. Sì, sì. Volevo provare l'899, però bisogna attaccare un cavo e attaccare un altro. Non lo posso dire, sì. C'è alcuno che cavo attacca l'altro, tra biglia e luci. Tanti ciò che la fanno un commutatore. Oh. Beh, quello là non ti ha dato risposta, no? Nulla, non ha chiamato. Nulla, 0.0. Per adesso vanno nei bongo. A chi la prima dice la può fare in fretta. Vuol dire che l'ha fatto in fretta, eh? Ma non ti ha detto cosa ci aveva? No, nulla, 0.0. No, prima di consegnarti non ti ha detto cosa ci aveva, no? No, nulla, non è che c'è. Lo vediamo, gli facciamo la visita. Ah. E muove andiamo. Vabbè. Sarà così, sarà. Sarà così. Uiuia. Attenzione, signor Marino, se ci sei, batti un colpo, se non ci sei lo stesso. Sì, vite me la corremma, sì. Aspetta, se no non ha giù un chissù. Corremma Veneto. Ah? Corremma ne hai? Il corremma è un po'... si sente parecchio con questo. Assolve, assolve. Qua non ce n'è tasto per eliminarlo. Devo entrare in coso, in impostazione, guardare a vedere com'è che si abbassa. Io lo so come si abbassa, però non te lo posso spiegare. Quello lì, per abbassarlo, lo metti sotto il tavolo e gli metti i piedi sopra, si abbassa. Non è così. Non è così, che gli faccio un bagaglio. Non è così, bisogna che guardi posto in manuale a vedere da dove si entra. Dalla porta, si entra dalla porta sole. Via, non si accianca. Cosa vuole dire? Antenne ti interessano? Cos'è, signor Battista? Si interessano delle antenne piccole. Adesso lo ricostruisco questa cosa che avevo tagliato. Mi serviva, il piede, il filo, e l'ho scassata. Allora cosa fa? Per i 10 e 20 metri. Sarà per il prossimo anno. Guardo di mettergli un coso, un dipolo anche. Oltre all'antenna che devo cambiare, le metto anche un dipolo. Ci sono dipoli solo. E sono anche piccoli. 2,45 per braccio, oppure 4,90 per braccio, a 9 metri, però quello da 9 metri è per gli 80 metri, capito? Per i 20 e 40 e questo da 4,90, 20 e 10, 2,45. Aspetta un attimo, signor Bacchi. Faccia pure come sia anche la sua, andrà bene meglio. Marino, ci sei? Gigante. Campagna, è andato, buonasera. Sei al sasso, buonasera. Come ascolti, stasera? Bene, bene, segnale ultimo, un'ottima ultima. Ho chiuso tutto, le porte ho chiuso, era un casino. Ha chiuso le porte e anche le finestre? Ho chiuso le porte stasera, non entra nessuno, c'era troppo casino. Hai fatto bene, fatto benissimo la chiuso. Nei lugari. E c'era il signor Cosmo, signor, come si chiama? Quello della barzelletta, non lo ricordo più. Come si chiama? Qui che c'ha il coso, il berretto alla punta. L'ho capito, la Pinocchio, la... Boh, non lo so io come si chiamano i animali, non lo so. Sì. E allora, tutto a posto oggi? Lascia perdere Marino, lascia così. Lascia perdere che non ne parliamo perché è una guerra grande e buona. Sì, vabbè, dai che ti vado dato il fatto, ti vado domani, lo fa male. Non ce l'hai, lunedì l'ha vinto, martedì. Lunedì. E poi speriamo non si prenda molto tempo questo qui. No, se non lo vai a fare l'asse, lui le controlla e vede cosa... La cura giusta, diciamo, là. Ma è stata già finita però la cura giusta. Solo che la babbuina del medico mio, fastidia, proviamo le pastiglie, proprio la polverina, proprio le punture, facciamo le punture, e i giorni passavano sempre. E alla prova, tipo anguria, alla prova, prova questo, prova quell'altro, proprio la prova, medico. Io lo chiamo il veterinario, non il medico. Questo ricordo che c'era un medico lui, che era un medico di casa, adesso è morto. Ordinava la cura al telefono a mia madre, le pastiglie al telefono. Come fai a dare la roba con tu, neanche la console, neanche la rivista, boh, alla fine il gambo, non c'è niente. Siamo così. Il vecchio è morto, c'era vicino al verduraio, da capello, non lo conosciamo, da parrucchino. C'era un anziano, un medico anziano, guarda, non sbagliava una. Gli anziani erano meglio, ma questi ragazzi d'oggi mi vanno più tolti dell'aino. Poi li provano, li hanno regalato, poi vincono con il pasto, sicuramente. Si può fare delle prove sui cani, no? Prova questo, prova quell'altro, prova la bruva. Questa fa bene per questo e quell'altro, poi butta giù. Adesso se prendo un'altra. Questo va bene per questo e quell'altro. Ma vedi qui, abbiamo detto, questi sono, proprio che il cavallo mio muore. Io che sto andando a 60 io, e come a muschio. Sì, davvero, boh, un casotto. Un casotto. Bene, tu chiedi con maestro Tore? E lui, sono arrivato adesso. Buonasera, signor Marino. Ben entrato. Ma sei a lei? Ma sento, la modulazione è un po' diversa, non mi sbaglio? Un po' diversa, ti piace? O non ti piace? Oh, che bella, dai, già è l'ultima, bella asciutta, non è bagnata, dai. Non è fusa? Allora c'è te buon compagno di Deva. Andiamo mai, andiamo, lo do. Boh, boh. Dai, più vende. Più vende. Leggiamo fitta fitta, ma è se più vende, dai. Ok. Signor Gigante, avanti. Sì, abbassi, pago vago, so, famiglia. Pago vago, abbasso. E domani vuol dire fai ferie, Marì. Non lavori. E chi va in ferie? Se piove non si lavora. Ma io devo lavorare. Se piove, vabbè, il passamento ormai è più basso, tutto fitto, ma dopo le 10:30 io devo uscire col camion, capito? Devi lavorare, questo servizio va fatto. E l'acqua come va? Proprio. Non ti bagni, Maria. Abbiamo tutto, ma sì, abbiamo tutto. Abbiamo impermeabile, abbiamo carri di capelli, la CC, abbiamo tutto. L'azienda non trema. Non capito. E noi che avevate una tenda grandissima, che il camion ci passa sotto, voi svuotate e poi riparte. Ma adesso la pioggia è brutta. Ma filtra e umidità è quasi male. Basta sospendere il giro e via. No, se è fitta fitta già lo facciamo. Se è forte ci blocchiamo, no Bacchista, se è forte ci blocchiamo, capisci? Dunque, bisogna che il servizio va fatto, il servizio va fatto. Movimenti, se abbiamo il CPS e controllo, se non passiamo in quella zona poi ci fanno il cassettone. Bene, Mela, signor Tore, avanti. E quindi quando è che vi fermate? Lunedì? E perché devo dire lunedì? E io a quell'ora me ne vado. Infatti, e fai vedere che bello cuscino funziona. Allora, l'hai letto quello che ha scritto quel cipittone di Paolettone? Favoraggio non è altro. No, ma non ho letto nulla, che no, non va giù giornale. Non c'ho giornale. Ieri mattina quel pupazzo, ci saresti su alla fatto locale, no? A fare il picchetto. Poi eravamo convinti che scendeva il sindaco. Oh, che cavolo ti scendo? Erano 20 pupazzi, proprio 20 pupazzi. E Tonino Zara, se da far nome, il suo mandrone, sai l'ha detto. E caro sindaco, 220 famiglie andranno a casa. Poi c'è tutta una balla, è tutto una cosa, stanno sparando solo cazzate, capito? Solo cazzate stanno sparando. Se verrete se ne affallo. Ormai la divisione l'hanno fatta a toro, la divisione, da estate, sono saliti su al palazzo locale, ma erano firmato il contratto, CGL e gli altri due, hai capito? Siccome CGL non ha avuto quello che doveva avere, allora fene casotto e fene un preso a ottenere quello che doveva ottenere, capito? E sta mangiando quello che ha fatto, sta dicendo era contro di lui, contro la Wii e così via, capito? Un pazzo come altro. Purtroppo sa che è così. Il potere, ma già se ne avvisa, che non rimane con 20 bassoni, già se ne avvisa. Pensarà che se ne andranno e speriamo che se ne andia. Ma chissà, c'è abbiamo ragione che è meglio, va. Avanti, signor Bacchi. Ehi, questa è una questione lunga. Perché, è pubblicità questa, quella che stanno facendo, è tutta pubblicità. Se ti ricordi Agostino, il vecchio Agostino, il giornalaio, lo strillone, si puliva a Bolzi, è caduto la macchina, la porta rosella via. Andai a comprare il giornale per la nuda, così è isso. Pubblicità. Rubazia fa pigliare 20 giornali e invece da voi. Mi domani però se ne avvisate che il giornale non ha pigliato nessuno. E così è. Avanti, signor Marì. Così è sto, sono venuto nel ragno, sono io via. Quanto dura questa pioggia sto, come sei bernata? Ah boh, io so che domani ha posto usore appunto. Da voi non lo gioco. Allora va bene, dai. Andare così a nulla. E non che fitta fitta se mi prende. Sempre facendo, meglio così. Almeno fece l'erba, vero Bacchi? Acqua. Ma lì, che sai dico, faccia quello che vuole, tanto la faremo tappare la bocca, no? Pazzisce di tutto questo. Eva. Però si è fatto un po' di sole, ha fatto anche bene, ha piovato la terra, le cattole di bene. Adesso mi esce il sole, l'erba la vedi, sopra l'albero. A vola, no? Piglia la rincorsa e vabbè. Purtroppo per quello ci vuole, ma chi non lo piglia, non possiamo fare nulla. Non possiamo farci nulla purtroppo. Vero so. Ah, infatti, e cosa vuoi fare? Ormai così rimani, dalla sarava almeno così innaffia un po'. Tanto da un bel senza beva e ha fatto rannaffia. Vabbè. Ma chi non ti ha chiamato quella persona, no? No, nulla, 0.0, non lo chiamo io, non gli metto fretta. Vabbè, con calma, già la palestra già ce l'ha, grazie, non si occupa. Quando è pronto, già chiamo lui direttamente, avanti. E infatti. Non so cosa devo fare, vediamo un poco cosa c'è da sistemare, perché mi ha detto, dice, quella è la fretta, e io ho preso il telebusto. Probabile, vabbè, là. Già c'era la fretta, non calma, come lo fa qui che siamo, allora, tutto. E infatti, la Ciaviro, a manco di un con calma, e la barita più bella. E vabbè. Andiamo dopo. E così andiamo. Dove siete mezzi e tutto va bene. Questa me la scrivo, Come sto? E questa me la scrivo. Ehi, scrivila. Qual è il tuo giorno, te? L'ultimo da te? Andiamo la schiava, dai. Con il coso sono, con quello col palmare, il suo originale. E va benissimo. E ecco schiavo, la tua radio, proprio la tua voce anche, giustissimo. Stasera ero sui 7 metri ascoltando. Questa la greffa degli italiani. Uno con l'altro si era baciato, se no era una trentina. Sì, ragazzi, è un appuntamento con la frequenza e tutta, bella. Va benissimo, anda bene, avanti da qui. Sì, almeno hai compagnia, Tore. Gira che ti giro, hai trovato il canale giusto. Stavo ascoltando. Una trentina vendita, uno si baciava con l'altro. Pensiamo dall'1 sino al 30, piano. Sino però si hanno un 2 ore a costelli. Com'è la frequenza con io, come una ricordo? Dei 7 metri, ma dei 40 metri. 40 metri siamo solo, vai, 40 metri. Quindi 7 metri ho capito, vai. 40 stato è l'altro inserito automatico qua. Allora, 7.119 e 25 euro. Sì, vabbè, già c'è l'automatico, guarda. Avanti, gigante. Ehi. Marino, se hai voglia di costruire, ti do un paio di misure da fare. Se hai voglia da costruire... Sinceramente non ti mai venuto a buco, se ne è poco bene, va. Proprio... Lo vedi, ragazzi, non fu, adesso è 2 minuti di stacco che controllo. Sto caricando, figurati. Sto caricando, la faccio di là. Adesso 2 minuti e controllo a che punto è. A che punto è. Figurati che c'ho tempo di costruire. Sì, piano piano, l'antenna per le cose, per gli 80 metri. È piccolina, 9 metri qualcosa, però sono 9,18, ma c'è anche piccolina, per 2 metri, sì, allora questa qui era 2 metri, dividete, questo è più grande, c'è una valigia 2 metri, 1 metro, che cosa vuol dire, allora. Niente, lo può abito, quindi. Capì. Allora, 2.45. Ok, 2.45 per 2 minuti e 9 minuti. C'è stato qualcuno che vuole entrare avanti con la buonasera? Ok. E da quanto è questa? 2.45 e 45. Un dipolo. Un dipolo che è una vecchia Morgan, c'è scritto nel piano. Una vecchia Morgan che usavano al tempo della guerra. Figurami, no. A me sul tetto mi fa male, infatti non c'è spazio. Non c'è spazio, ovviamente l'ho attaccato al palo dell'antenna e poi buttato giù fino a una vecchia di recessione, hai capito? E vedi questo filo brutto o meglio nulla. E poi ci sono tre appaiati che viaggiano. C'è un distaccamento da un filo all'altro di 2,5 cm, 2,5 cm, 2,5 cm. E mi fa andate e ritorno. Ho capito. Mi fa male, vediamo più là, ma adesso non vedo niente, non faccio nulla adesso. Ok, tu riprendi che sto arrivando su, dove un'occhiata con la faccina che sto facendo, vai. E lui. Ma chi mi stava dicendo delle antenne, ma è tanto, anche se è cosa non posso salire su, allora con un tempo vero non si può fare nulla in chibi. Ma se te come Zofini fai danno, non conviene salire su, conviene salire su nulla, e poi provare a sistemarli uno dentro il corpo, dentro la soffitta. No, se no ci passiamo anche il cavo lì e devo uscire fuori, devo uscire sul tetto per togliere quell'antennino che c'è e prendere il cavo. Ecco cos'è, è che cavo di bongo, non naggio. Anche il cavo passa lì, in soffitto non ci passa niente, allora fa tutto esterno. Sì, tutto esterno passa, tutto fuori. Allora no, io a tempo buono, adesso si scivola. Si rompo le tegole ed è pericoloso, un beh. Già tu già l'hai visto come ti è, in chi vi bisogna alzare solo di più. Solo d'estate bisogna salire. Esatto, solo in estate che le tegole sono asciutte, non c'è nulla. Se no, come se li scicavo a giosso, a Piazza Porrino. Infatti, e si buccia direttamente a Caramascio, lasciate anch'ivi. E lui, no, rimane così, prossimo anno vedo, o mi faccio il dipolo, tanto devo mettere, se esco promosso, mi si pongo un'antenna da Dagoso, per poter cambiare. Se c'è le comunità non si può fare, ma ce ne posso sul tetto, Puglia, ce n'è, dunque non c'è problema tu. No, infatti, mi giambo buru rubaro i ve, ne tolgo quel palo lì, ci metto la staffa più lunga dentro nel tetto e poi ci metto il coso, il tubo lungo, per poter metterci l'antenna che devo metterci. Chi ti hanno rosso così mi arrabbiassi, boh? Il palo deve essere un po' robusto, il palo maestro. Lo lasci fisso dentro il tetto, lo muri, gli metti le strappe, lo muri e non va nessuna parte. Ci metti un tubo fino, dove c'è sempre il giambendolo. No, è come quello, tipo come quello che c'è, soltanto che rubongo zingato, rubongo, quelli di acqua proprio, di quelli zingati, che non si arrugginiscono, proprio di quelli. Io si arrugginiscono solo quelli della cosa, della segnaletica stradale, sono una bomba. Ma non si può subunire uno dei ghisci, quelli sono 2 metri lunghi. Anche 4 metri? Anche 4. No, sono da 2 metri sono. Avevo chiesto a mio fratello, ma gli ha detto sono pali da 2 metri sono, poi no, non vanno bene per quello che devi fare tu. Ah, piglio due, uno grosso, un ebiglio, e uno come te, e l'altro che entri dentro. Gli faccio, gli attacco due dadi con un bollone in acciaio, a voglia si anda. Allora io avevo l'antenna che c'avevo prima, saliva sino a 12 metri in altezza ed era un tubo da 4 metri, faceva 4, 4, 8, 4, 12, poi era troppo e ho tagliato, e tuttora se la voglio salire salgo sino a 8 metri e sono tubi di acqua di coso della segnaletica stradale, capito? Sono zingati e rizingati. Ma quelli non ne fanno più come prima. Prima ne facevano, erano 4 metri, ma non ne vasene più, i gioffeni tutti da 2 metri i gioffeni. Ho chiesto a mio fratello perché li cambiava lui. Maestro dice non ne fanno più di quelli di una volta, da 4 metri. Adesso stanno facendo tutti da 2 metri, stanno facendo. Può essere 2 metri tole, perché 50 centimetri li metti sotto. Ah, 50 li metti sotto. Fuori ne arrivano 50, io passo il culo alla bassa, sono 2,50. È quello che sto facendo io, faccio così, due tubi da 4 metri, uno che infila dentro nell'altro tubo da 50 centimetri, con in due bolloni con dado in acciaio, a voglia. Io ce l'ho fatti così. Sia in campagna sia in città. Porti su, sei stanco, giri la chiave e stringi. Sei riposato, un altro po' e via. E così si va su. Infatti, coso Luca mi aveva detto di farglielo con la carrucola, portarlo su con lo spago, l'antenna. Mettere il palo fisso e portarlo su con la carrucola. Sì, ho capito cosa devo fare. Vai, trappole, perché se salta fuori dalla carrucola il filo sei incasinato, invece da venire via. Poi al dado, gli metti una croce, a modo di stringere con le mani leggermente, poi alla fine dà un colpo di chiave. Sì, no, quello sì, ho fatto come avevo fatto con questa, solo che rubare non ne si dubbio, se hai fatto delle cose, sei pieno di ruggine, non so di cosa, e non ne si dubbio. Ruggina, la convenza fa la ruggina. E io sto tenendo un palo da 3 metri, che è entrato proprio palozzato, non so cosa ne esce visto. Se no devo prendere la molla, tagliare il palo e abbassare. E infatti è così Bacchi. Se no, vedi, adesso al prossimo anno vedo come sistemare e vedere. Poi tanto si basterà un mese e mezzo a avere tutto canto. Quando una volta che ho dato l'esame ci passerà un mese e mezzo per avere sia il nominativo e più la licenza che devi avere a ultimo. Quando c'hai tutti e due la patentino e nominativo e poi a ultimo devi mandare la cosa a Cagliari per avere la licenza, hai capito? Per sistemare la stazione radio in casa. Andiamo bobo. I più belli gusti andave. Sì, hai capito Bacchi. Un attimino Luca. Un po' di giri solo. Chi era questo bobo avanti? Pinocchio, Bacchi, Pinocchio. Ma la sorte, è arrivato. Buonasera, signor Pinocchio. Buonasera, signor Bacchisio. Tutto a posto, sì? Come ti sei alzato di coso? Cosa hai detto? Acciariato, Si è andato i motori. Ci ha mandato apparato, ai Mari. Si sente, sì. Certo, si sente, amplifica da voce il burro, Proprio al minimo, proprio, è quasi a qualcosa. Andiamo, Bacchi, bobo. Forte. Sempre sotto casa. Bobo, ma Tore, a me mi pare che tu auto a che cosa di tesoro ha comprato tanta roba. Ma Bacchi... un attimino che sto entrando subito. Entra subito, siamo in Italia, avanti Mari. Siamo che andiamo, così è. Allora, posso andare, siamo pronti, sì. Il cupo, prima che mi devo essere il cupo. Siamo il microfono troppo vicino. Va bene adesso. Un attimo, trovo con vago. Così bella, sì. Adesso sei più chiaro, limpido e chiaro. È colpa del tore, macchina, è colpa del tore. Che tu ti riprendi una negra e la siedi di fronte a te, dici, allontano la vicina, l'ho capito. No, che la negra c'ha la fiaco di coccodrillo, di elefante, non da te. Lei lo so. Se è allontanato, doveva portare l'uccellino a fare la pipì. Vabbè, dai. La fatica metto, è stato male, non c'è più. Domani lavoro. Domani si lavora. Mi hai sottolineato, ero fuori. E sei troppo a posto. E così via, non sono più tranquillo, dai. Non venire assai, però io la tengo sempre. Meno ce n'è, meglio è, capito? Da che? Beh, se no si supera il livello, poi sono guai. Magari arriverà un'ondata e supera il livello. Buongiorno, anche se c'era poco, 2 minuti, la butto giù e poi la salgo su. E ciccia. Bene, Tore ancora QTH piccolo. Bene, nera. Così è gigante, così è. Ehi, lo stai andando bene. Bene. L'ultimo entrato in casa è questo, no? Sì, e sei in altre persone, tu? 9, 5, 9, 6, non di più. Ma già va bene, dai. Va benissimo, ma chi? Tutto va bene? E io quanto sto arrivando, Mari? Fiorelli, sono senza occhiali, aspetta, dentro gli occhiali. Aspetta. Lo sai, Franco, che sto invecchiando, non ho bisogno di occhiali. Aspetta un attimo. Su che arriviamo, fuori un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Allora, qui stiamo arrivando, una maglia di 5 perfetta, un Santiago di 7. Gamma, dai, spatola a cambio, 5, 8, radio 5. E vai, Bachi. Ciao, adesso io sono confuso, tra Franco, uno Franco l'altro, va bene, dai. Sei alternata, stai uscendo con l'alternata, il tuo rapporto è 5, 7. Ancora c'è l'alternata, vedi un po', 1, 2, 3. Ha un cassetto, ne hai, si sente come con una casserola che è al fuoco. E adesso? Aspetta, ancora l'alternata. Sì, ancora l'alternata, inverti la spina. Sì, Cerbacchi sono rientrato. Che è così, signor Fra? Franco Del Monte, quello di che va giù a Canica. Avanti Fra. Guarda un po' adesso, 1, 2, 3, 4. Pulita. Va bene. Giusto Fra. E allora lascio così, dai. Signor Fra, sì, buonasera, lascia così. Ciao, dottore, buonasera. Questi apparati sono da sognare. Anche io devo fare l'inversione di polarità. Quando addirittura mi dà la scossa. Vuoi averti la spina così? Ti dà la scossa. Quando tu ti appoggi, è leggera, non è non sia leggera. Però inverto la spina, nulla. Purtroppo. È così. Avanti, Tore. Ello. Anche a me così, no, a me no, io da Gibuti su cosa non me ne offende più. Però stamattina ha giudicato un microfono e me l'ha data appena me l'ha data. Ma ce l'ha buttata, ce l'hai da fare, Otto? Ce l'ho lasciato, c'è il cavo fuori, c'è vestito un picchetto dentro, nel terreno. Ah, quel lavoro è fatto l'altra volta, ho capito. Come l'ho fatto anch'io, dai. Ma lo sai, ma come si scarica fuori? Hai fatto benissimo. Avanti, signor Bacchisio. Però devi andare a innaffiarlo ogni po'. In estate vuole innaffiato, in inverno non c'è bisogno. Un secchio d'acqua glielo butti, avere l'umidità. Non venne abbastanza anche su Bezzare dove ho da Reno, da un mese dai. Figurati, è sempre infuso. Beh, se è sempre infuso tutto da me, però se è asciutto non fate nulla. No, no, è sempre infuso. Se farà un mente nulla, non darreno il suo becchetto. Magari è sabbia in quella zona. No, non penso, è proprio terra a terra. Però sotto era umido, era quando ce l'ho sceso. Io ho sceso forse di mazza. La mazza non è scesa. No, oh, una mazza sta già varato. No, io avevo la mazza manna, io. C'avevo una mazza grande, dunque, ma ormai è già a posto, già va bene. Avanti, Franco! E aspetta, voglio provare un'altra antenna, Mari. Che siamo qua, proprio parti, dai. Avanti, Marchisio. Torna, ha piazzato il picchetto. A colpo di testata ce l'ha buttato dentro. Un colpo luce, un colpo di mano, si è fatto voilà. Capito? E dunque, il morsetto messo diretto. Sì, gli ho attaccato il morsetto proprio, quelli da cose, mi aveva dato un megugnato. Il lene di una busta che hanno attaccato proprio a un bicchetto. A me mi ha regalato un amico, mi ha dato, e mi ha piazzato, vero perché? È così, No, già va bene quello, so. E poi sono in bronzo, no, la base del coso, il pezzo di sotto è in ghisa, e l'altro è in bronzo. Io ho piazzato un bombo perché, poi con quel cavo che mi ha dato ho fatto 13. Giusto. È attaccata la mantova? E la quarantena, la stella che c'ho. Ho fatto la ticchetta, no, quel cavo è andato per massa, più nel pezzo del mossetto. Ho fatto 13. La misura giusta, Luca, ci ho piazzato e va benissimo. Sì, va benissimo, lascia stare fermo tutto. Tutto fermo. Tony invece ha sistemato tutto lo stesso. Io nulla, io non ne ho di massa terra, zero di porto zero. E poi la mano di te lo scaricava, capito? Ma ormai avevo fatto quel pozzetto che stavo facendo per le acque e ne ho approfittato, capito? Io ho messo del pozzetto, un po' di colpi di mazza, ci ho fatto scendere un bel po' e dopo ci ho messo il cavo e così via. E già va bene adesso, dai, non sento il cavo, mi hai dato tu. Era giusto e l'ha piazzato. Bene, avanti tu. Ehi, Franco, ti sei soprammodorato con Marino. Però ha vinto Marino. Ehi, ok. Dai, io ne approfitto. Ci sentiamo domani, se tutto va bene. Ciao, signor Bacchi, stammi bene. Buona cena, ciao anche agli altri, ciao Marino e ciao a Franco, ci risentiamo alle prossime, ciao agli ascoltoni, ciao a tutti. Ok, ciao a tu, ben sentito, sono tu in casa, allora se coincide, avanti ma che? Ehi, ciao Tole, buona serata, e fatti vedere, non da Tole no, dalla luce del sole, a domani Tole, ciao, buonanotte. Bene Marino, anche io ne approfitto dell'occasione perché è arrivata l'ora del merendero anche per me. Te saluto, ciao Marino, buona serata, buon correttivo, non lo fai? Ciao Fra, buona serata, alla prossima, bye bye. Ciao Bacchisio, ciao anche a Tore, buona serata anche a voi. E vai Marino. Sì, ciao Bacchi, ben sentito, non si coincide, là. E salto in casa, avanti Fra. Vedo un po' se ha migliorato Mari. Aspetta, cambio radio, vuoi dire il segnale più preciso, va. Un attimino. Vai. Radio 5, Santiago 7, Franco. Bye bye. Come poco fa praticamente, no? Il segnale è sempre uguale. Il segnale è sempre uguale, però la modulazione è molto più chiara. Ho capito, ok, va bene, ho cambiato antenna adesso, dai. Franco? Mari, dica, vai, vedi un po'. Fai un altro passaggio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Santiago 8. Aumentato? Realmente sì. Ok, dai, allora questa va meglio l'antenna, dai. Sì, la modulazione è la solita, canale 5. 5 perfetta, dai. Ho cambiato antenna, dai. Prima stavo uscendo con un'altra antenna, adesso ho messo un altro tipo di antenna. Va benissimo, dai. Va benissimo. E allora, tutto a posto, Fra? E tu stai arrivando a Santiago 9, qua, Radio 5. Ah, va bene, dai. Anda bene. Va benissimo. No, e poi la modulazione è buona, anche pulita la radio, va bene. Esatto. Ma dove sei, in casa o in campagna? In campagna sì. A casa sono, Marino. perché stavo facendo una cosa, devo finire dei lavori a casa, quindi sono salito. Ah, ok, dai. Bene, me da Frank, io ti devo lasciare che c'è mio nipote che mi sta bombardando di messaggi, arriva allora a quell'ora. Ok, io oggi ho terminato di lavorare, erano le 4:30 passato, mi sono forgiato un'ora e mezza poi mi sono alzato. Ho fatto un lavoretto che devo farlo per forza e mi ero acceso, un'oretta all'apparecchio, adesso me ne salgo sopra. Ciao Fra, ben sentita, domani se coincide sto tu in casa, dai. E anche io sto chiudendo, intanto devo finire ancora con alcune cosette. Ciao Marino, dai, e buonanotte, buon tutto, buon carico, te la riascoltare in prossima, saluto anche a quelli che ce ne ascoltano. Per me è QRT, ciao ciao. Ok, ciao Fra, ciao.